come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, come al solito, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666, la Zanzara @radio24.it, subito i titoli del TG2. Strage di Erba, condanna all'ergastolo per Rosa e Olindo Romano, la soddisfazione dei parenti delle vittime, Azzuz, i miei cari possono riposare in pace. Al TG2 la testimonianza in aula di Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto alla strage di Erba, accusa Olindo e Rosa, sono stati quei due delinquenti lì. Arriva la social card, a beneficiarne, ha spiegato il ministro Tremonti, saranno 1.300.000 italiani, 120 euro da spendere per Natale, poi verrà ricaricata con 40 euro al mese. L'FBI lancia un allarme, durante le feste di Natale Al-Qaeda vuole colpire New York, il piano sarebbe stato preparato a settembre, ma finora non ci sono riscontri concreti. In migliaia dicono addio a Vito, il ragazzo di 17 anni è rimasto ucciso dal crollo del soffitto della scuola di Rivoli, la sorella ora si è diventato l'angelo custode di tutti gli studenti. Bene, erano i titoli del TG2, certamente la notizia che è arrivata questo pomeriggio diventa inevitabilmente la notizia del giorno, cioè la condanna all'ergastolo per Olindo e Rosa Romano, accompagnata dall'isolamento diurno per 3 anni. Ho notato una cosa negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, ma non solo nelle ultime settimane, in alcuni quotidiani radicati al nord, in particolare la Padania e Libero. Vi leggo per esempio un editoriale scritto da Luigi Sant'Ambrogio su Libero il 20 di novembre. Olindo e Rosa, oltre l'ergastolo, perché anche l'isolamento? E c'è tutta una posizione molto garantista sul fatto che l'isolamento è sbagliato, che non bisogna buttare la chiave, eccetera, eccetera. E le stesse cose possiamo ritrovare più o meno in alcuni editoriali della Padania, in cui addirittura si prendono delle posizioni molto, molto garantiste sui coniugi Romano, il che va benissimo. Certamente non vengono usati gli stessi metri di giudizio quando si tratta di persone del sud che commettono degli omicidi o addirittura degli extracomunitari. Su questo non c'è dubbio. Studio aperto. Ergastolo e 3 anni di isolamento per Rosa e Olindo. Dopo 6 ore di camera di consiglio arriva il verdetto della Corte di Assise di Como per la strage di Erba. Accolte tutte le richieste del PM. Inutile l'ultimo appello in aula di Olindo. Capisco il vostro dolore, ma sono innocente, aveva ribadito. La tragedia di Rivoli, migliaia di persone per l'ultimo saluto al ragazzo morto nel crollo del liceo Darwin. Palloncini bianchi e blu in cielo, 4 d'argento con le lettere del suo nome. Appello del parroco alle istituzioni, la sicurezza in primo piano. La sorella, ciao Vito, si è diventato l'angelo custode di tutti gli studenti. Napoli, 17 anni, una promessa della Vox, frequentava la stessa palestra di Clemente Russo, Argento. Bene, bene, questi erano i titoli principali di Studio Aperto alle 18:39. 800 24 00 24 è sempre il numero per chiamarci in diretta. Molto efficace questa mattina l'editoriale, il primo editoriale del Foglio, a proposito della ormai arcinota vicenda della vigilanza Rai. Di poche cose si può fare tanto ragionevolmente a meno come di questa lagnosa commissione di vigilanza sulla Rai. Già il nome fa noia, le beghe intorno alla sua presidenza affliggono da settimane, il contributo a qualcosa che sia di una qualche utilità pubblica risulta labile, praticamente irrilevante. Uno dice vigilanza Rai e si potrebbe pensare a un efficiente servizio di metronotte per Viale Mazzini. Ora mi compiaccio del fatto di non essere da solo a fare questa battaglia sull'abolizione della vigilanza Rai, infatti l'editoriale ha come titolo Aboliamo la vigilanza. Un'altra delle notizie del giorno è certamente la social card, la carta acquisti promossa dal governo per le fasce più deboli, per i pensionati. Ieri sera durante Ballarò abbiamo visto un Di Pietro particolarmente conciliante, poi ci ha ripensato subito, oggi è tornato a fare dichiarazioni se non di fuoco molto forti nei confronti del governo, e comunque dice noi abbiamo il dovere di votare, di dire sì a queste misure del governo. parlando di economia e di come risolvere i problemi per chi non arriva a fine mese, io nonostante quello che ha detto lui, e nonostante tutto quello che ho detto io, fatte le debite conseguenze, nonostante questo, io credo che se si prendono decisioni domani, io non so domani cosa il governo, dopodomani quando sarà, il governo prenderà in materia, perché finora ha detto sempre farò. Dopodomani ci dovrebbe essere un importante CIPE e Consiglio dei Ministri. Se fa quei provvedimenti che ha detto, io mi prendo le parolacce che mi ha detto, lui si prende le parolacce che gli ho detto, ma quei provvedimenti dobbiamo approvarli al più presto. Poi oggi ha parlato però della social card, ripeto, la carta per gli acquisti per le fasce più deboli, come una sorta di tessera del pane. La social card è l'ultima delle cose che dobbiamo fare. Va bene, ma io personalmente ritengo che la tessera del pane faceva parte di un altro periodo storico. Un altro periodo storico, e dunque la tessera del pane. E rievoca ancora una volta, è un po' un vizio di qualche politico, il ventennio fascista, il segretario di Rifondazione Comunista Ferrero, sempre a proposito di questa tessera per i più poveri. La quantità di risorse messe da Tremonti per i poveri è ridicola rispetto a quella messa per le banche. E in secondo luogo questa idea della social card somiglia molto alla tessera del ventennio, insomma. La tessera del ventennio. Bisognerebbe usare, ne parleremo fra poco, le parole con una certa prudenza. Beltroni invece ha scoperto, dice che, citando qualche fonte, qualche statistica apparsa sui giornali, che adesso c'è un numero consistente di famiglie italiane che non arriva non più alla quarta settimana, alla seconda settimana. Le famiglie italiane hanno bisogno di risorse. Oggi i giornali dicono che una famiglia su 10 non arriva alla seconda settimana, non più alla quarta settimana. L'Italia sta così e il governo non se ne accorge. Il governo regala i soldi a chi compra l'Italia, il governo regala i soldi attraverso l'iniziativa dell'ICI, ma si disinteressa totalmente delle piccole e medie imprese e delle famiglie. Questo Veltroni è la seconda settimana. Sempre ieri sera a Ballarò c'era un Romiti. Sapete tutti chi è Romiti, naturalmente, in veste tra virgolette populista, simil populista, diciamo così, forse populista è esagerato, però dice Romiti i politici devono dare l'esempio. Quando io ero in battaglia l'esempio era che mi facevo vedere, ero il primo a rischiare di fronte agli altri. Qui ci sono diversi parlamentari, io leggo sui giornali che esiste ancora, malgrado il referendum avesse abolito il finanziamento pubblico dei partiti, che il finanziamento pubblico esiste, non solo esiste, ma viene interpretato in maniera tale che anche i partiti che oggi hanno perso le elezioni o che non ci sono più, avranno nei prossimi due anni diverse centinaia di milioni di euro in una sorta. Ma vogliamo, signori del Parlamento, vogliamo cominciare a rivedere questa situazione? Beh, insomma, sentire Romiti tuonare contro il finanziamento pubblico dei partiti è comunque curioso, anche se nel merito ha perfettamente ragione. 800 24 00 24. Fatemi dire una cosa, trovo scandalosa la decisione immotivata, controproducente addirittura, e sintomo di una battaglia di un periodo che non vuole mai finire. La decisione del Consiglio Comunale di Milano, in particolare dei consiglieri di centrodestra, di non dare l'Ambrogino d'Oro, che è una onorificenza che il Comune di Milano assegna ogni anno ai milanesi emeriti, diciamo, milanesi che si sono distinti, diciamo così, a Enzo Biagi. Segnale, ripeto, di un periodo, quello del berlusconismo, dell'antiberlusconismo, che anche gli stessi berlusconiani evidentemente vogliono che non finisca mai. Insomma, io credo che i berlusconiani all'interno del Consiglio Comunale di Milano siano ancora, si ricordino ancora e solamente dell'Enzo Biagi, che prima delle elezioni del 2001 invitò Benigni. Allora, come si usa dalle nostre parti, Roberto, come va? Questa è una domanda, lo vedi, l'educazione dell'uomo. Io la ringrazio per questa domanda semplicissima. Come può andare avendo davanti un afflato monumentale come lei? Io quando vedo lei ecco che risorgo dal momento eroico e vengo, mi viene spontaneo. Fisicamente, si ricorda l'ultima intervista, mi sono spogliato, io sono rimasto là. Mi sento ancora aiuto e la vorrei riabbracciare per darle un bacio passionale, che quando si bacia con passione si ammazza tutti i virus. Fanno bene, l'ha detto anche Veronesi. E glielo do. Si ricomponga. Che uomini sono questi? Ma dove? Sentiamo un po' la seconda domanda. Seconda domanda. Cosa te ne pare della situazione italiana? No, no, signor Biagi, io siamo in campagna elettorale, non voglio parlare di politica, sono qui per parlare di Berlusconi. E insomma, fu un'intervista che provocò poi, tra virgolette, la cacciata di Biagi dalla Rai. Perfino Vittorio Sgarbi, oggi un'intervista a Repubblica, dice: un puntiglio dei berlusconiani, così hanno l'effetto opposto. E secondo me ha perfettamente ragione. Un paio di messaggi li voglio però commentare subito. La social card la prendono quelli che non pagano le tasse, questa mi sembra un'osservazione corretta, naturalmente non è così, però c'è il rischio effettivamente che vadano a delle, che bada la social card a delle categorie di evasori, su questo non c'è dubbio. E poi ancora un altro messaggio che volevo commentare sulla vicenda di Biagi, che adesso non trovo e che recupero fra poco, eccolo qui, ed è un messaggio che ci viene da Milano, da Lanfranco, che dice: hanno fatto bene a non dare l'Ambrogino d'Oro a Biagi perché era un fazioso. Ecco, questo tipo di messaggi, secondo me, questo tipo di idea, Biagi era un fazioso, hanno fatto bene i consiglieri del centrodestra a Milano a non dargli l'Ambrogino d'Oro, è il sintomo di un passato che non vuole passare mai, di un astio che ormai non ha più ragione di esistere. Andrea Romano, buonasera. Buonasera a lei. Andrea Romano, editorialista del Riformista, docente di storia contemporanea a Tor Vergata. Anche oggi è stato utilizzato il termine ventennio, fascismo, secondo me a sproposito, e bisognerebbe stare molto attenti all'uso delle parole. È stato utilizzato per esempio sulla social card, naturalmente non c'è nessun tipo di collegamento, anche perché ha spiegato Tremonti, poi si può criticare naturalmente come misura, è efficace, non efficace, serve, non serve. Tremonti ha spiegato che iniziative simili alla social card sono allo studio o sono in atto, sono in vigore in diversi paesi. Ecco, ma perché questa abitudine di utilizzare parole come fascismo, nazismo nel linguaggio politico, nel dibattito pubblico italiano? Ma credo che sia veramente in questo senso il segno di una, in qualche modo, di una deriva non tanto, come dire, violenta, perché il punto è che si tratta di affermazioni retoriche alle quali poi non segue niente. Un po' è una tradizione, se mi permette, un po' italiana, nel senso di una certa retorica italiana che ama gettare il cuore oltre l'ostacolo, alzare il livello della retorica senza, in questo caso per fortuna, far seguire alle parole ai fatti. E però quando si comincia a toccare certi temi, già il fascismo, ma soprattutto il nazismo, come è stato fatto di recente da Antonio Di Pietro, ecco, io lì davvero penso che sia necessario dire qualcosa, dire almeno che si tratta di un'infamia, perché il nazismo non è stato un fenomeno innocuo per chi lo subiva e non spetta certamente a me ricordarlo. Ecco, io credo che chi usa queste parole dovrebbe avere più rispetto per le vittime di quei fenomeni, che furono vittime in carne ed ossa, morti veri, carne e sangue veri. Questo è il punto. Poi naturalmente non è che Di Pietro è stato il primo a ricorrere a questo. No, figuriamoci, anche nel campo del centrodestra ci sono stati eccessi. Oggi giustamente Gian Antonio Stella, in un articolo su Corriere della Sera, ricorda i nazi comunisti che vogliono sterminare le religioni, frase di Umberto Bossi e altre cose ancora. Assolutamente, sì, non è veramente una questione di raffinatezza accademica a sollevare l'attenzione su questi aspetti, ma ripeto, attenzione per le vittime e anche attenzione alla qualità della nostra discussione pubblica, perché davvero io credo che nessun paese europeo, pur nella più feroce polemica politica, come è naturale nei paesi liberali, si ricorre a questo tipo di spauracchi, e spauracchi che tolgono di mezzo qualsiasi possibilità di andare oltre, perché dopo che si è parlato di nazismo non so a cosa si può ricorrere, alla bomba atomica, perché non siamo arrivati alla fine in qualche modo. Io penso che, per tornare a quella domanda che lei mi faceva, anche riferirsi al ventennio, naturalmente è vero che Berlusconi si avvia, come hanno detto alcuni commentatori, ad essere, diciamo, in carica o comunque sulla scena politica da un ventennio, ma cosa vuol dire? La Democrazia Cristiana lo è stata per più tempo, insomma. Diciamoci la verità, noi siamo una società democratica con tutti i limiti della democrazia italiana, nei quali c'è stata un'alternanza politica negli ultimi 15 anni, e francamente siamo anche una società benestante in cui ci possiamo permettere lussi. Faccio un solo esempio, parliamo continuamente di cibo biologico, di qualità del cibo, insomma sono questioni che attengono ad una società evoluta, benestante, con tutti i problemi di una società benestante, e però questo non ha veramente niente a che fare con le terribili tragedie del Novecento a cui troppo spesso ci riferiamo. Volevo da lei un commento, se vuole. Io l'ho fatto e anche molto duro su questa decisione del Consiglio Comunale di Milano, che va addirittura contro il volere del sindaco di Milano Moratti di non dare l'Ambrogino d'Oro a Biagi. Ora uno potrebbe dire: chi se ne importa dell'Ambrogino d'Oro, però mi sembra un segnale di un qualcosa che non vuole finire mai, ecco, dell'anti-berlusconismo e del berlusconismo, da forse qualcuno è più realista del re in alcuni casi. No, sono d'accordo con lei, per riferirmi al commento dell'ascoltatore che lei citava poc'anzi, che usava il termine fazioso. Qualsiasi grande giornalista è stato fazioso, Montanelli è stato un grande fazioso, ma non solo quando è diventato anti-berlusconiano, era fazioso anche quando era l'eroe della destra, di una certa destra italiana, perché una, diciamo, anche le firme che io seguo con più assiduità sono faziose, naturalmente non sono stupidamente faziose, e Biagi non fu mai stupidamente fazioso. È stato un grande giornalista che ha avuto un grandissimo numero di estimatori. Un grande milanese, è questo il punto, un grande milanese, perché l'Ambrogino d'Oro si dà... Se non è stato Biagi il simbolo di una cultura milanese, di un altissimo modo di fare giornalismo milanese, e francamente, come è stato detto, questa decisione si ritorce, io credo, contro anche i legittimi oppositori di Biagi in qualche modo, perché Biagi da oggi è più icona che mai in qualche modo, ha su di sé i tratti di una emarginazione veramente poco fondata, dai limiti della stupidaggine in qualche modo, di cui io credo lui si sarebbe anche, avrebbe sorriso in qualche modo, vedendola appunto come un segno di cui andare fiero. Assolutamente, grazie Andrea Romano. Grazie a voi. 18:54, Alberto da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Io stavo ascoltando prima dell'ergastolo a Olindo e Rosa, no? E mi chiedevo qual è lo scopo di tenere una persona in carcere per tutta la vita. Adesso recentemente c'è stato il caso di Maso, che ha scontato 17 anni, era un ragazzo di 20, ne esce a 37, riabilitato, diciamo, rieducato forse, ha la possibilità effettivamente di dare anche un contributo alla nostra società. Però tenere una persona in carcere per il resto dell'esistenza... Lei, Alberto, fa un discorso generale, vorrebbe abolire l'ergastolo. Qualcuno, per esempio, nell'estrema sinistra ci ha pensato nella passata legislatura? Allora, se la prigione dovesse, se vogliamo dare uno scopo rieducativo, riabilitativo al carcere, allora il senso di dare l'ergastolo cade. Tra l'altro ha un costo di 200 euro, mi pare, giornaliero del sistema carcerario per ogni detenuto, e ha un costo di 3-4 milioni di euro se pensiamo una vita di 20 anni di questi personaggi in carcere. Quindi io veramente mi chiedo... Lei è contrario all'ergastolo? Io sono contrario all'ergastolo, sono piuttosto, ma non per motivi umanitari, perché tra l'altro io... sono uno di quelli schierato per la pena di morte, obiettivamente. Beh, oddio, essere schierati a favore della pena di morte, essere contro l'ergastolo, vabbè. Non veda per forza immediatamente una contraddizione. Beh, insomma. Io mi chiedo, vabbè, io le dico, davanti a un crimine efferato come quello. Lei dice con la pena di morte non spendiamo, il contribuente non spende, mentre con l'ergastolo spende. Insomma, è un ragionamento piuttosto perverso, Alberto, però. Mi cerco di essere più preciso. Allora, Pietro Maso ha fatto un crimine efferato in un'età dove la riabilitazione aveva un senso, quindi l'investimento, diciamo, per la società sulla persona aveva un senso. TG3. Olindo Romano e Rosa Bazzi condannati all'ergastolo e a 3 anni di isolamento per la strage di Erba, Zuzura e i miei cari possono riposare in pace. Migliaia di persone ai funerali di Vito Scafidi, morto nel crollo della scuola di Rivoli, la sorella è un martire di persone senza scrupoli. Bruxelles vara un pacchetto anticrisi da 200 miliardi di euro e annuncia flessibilità sui conti pubblici. Tremonti presenta la social card. Veltroni, dal governo nessuna nuova risorsa contro la crisi, serve un vero piano per le famiglie. Crisi in Sardegna, Soro continui il suo impegno. Allarme dell'FBI, Al-Qaeda starebbe preparando un nuovo attentato a New York, sarebbe pronta a colpire la metropolitana per Natale. Ancora sotto assedio l'aeroporto di Bangkok, trasferiti in albergo 50 turisti italiani, i militari chiedono nuove elezioni ma il premier rifiuta. Cancellati dall'Italia fino al 70% dei voli su alcune tratte, penalizzata soprattutto la Roma-Milano, disagi e proteste. Fiato sospeso per Batman, secondo alcune voci per il supereroe si prepara una morte lenta, ma l'ultimo numero del fumetto riserva sorprese. Allora, intanto Bertolaso dice, a proposito delle scuole, avete visto, il tema sembra scomparso dall'attualità, controlli ma senza allarmismi. Poi ci sono altre due cose, a proposito di un titolo del TG3, Al-Qaeda vuole colpire New York, bisognerebbe aggiungere qualcosa, gli investigatori precisano, l'allarme è credibile ma al momento è privo di riscontri concreti. E poi c'è un'altra notizia che il TG3 nei suoi titoli ignora. Investì e uccise due fidanzati, ricordate, Stefano Lucidi a Roma, 10 anni per omicidio volontario. Sky TG24. La strage di Erba, ergastolo e isolamento per i coniugi Romano. Crisi economica, ha approvato il piano europeo da 200 miliardi. Arriva la carta acquisti, 40 euro al mese per oltre 1 milione di italiani. A Malpensa decolla Lufthansa Italia, a Fiumicino voli cancellati, ritardi e disagi. Commozione ai funerali di Vito, il 17enne morto nel crollo di Rivoli. Investiti e uccise due fidanzati a Roma, 10 anni per omicidio volontario a Stefano Lucidi. Allarme dell'FBI in New York nel mirino di Al-Qaeda durante le feste di Natale. Obama completa lo staff economico, Paul Volcker capo del nuovo consiglio anticrisi. Caos in Thailandia, Bangkok aeroporto ancora bloccato, scontri con i ribelli. Champions League tocca Inter e Roma, Mourinho vuole gli ottavi, Spalletti cerca conferme. Bene, questi titoli di Sky TG24 alle 19.21, 800 24 0024, giustamente Sky TG24 mette nei suoi titoli la notizia della condanna per omicidio volontario dell'investitore romano Lucidi, ricordate che uccise due ragazzi, due fidanzati, 10 anni ha preso alla fine, poi naturalmente bisogna vedere quello che succederà in appello e nel corso degli anni. Un'altra notizia degna di commento mi sembra sicuramente il decollo di Lufthansa Italia a Malpensa, primi voli a marzo, ma insomma i tedeschi fanno sul serio, al di là dei possibili accordi con l'Italia sembra ormai andare invece la CAI verso l'accordo con Air France. Ma divertiamoci un po' dopo tutte queste notizie seriose, perché ne arriva una da Perugia, ve la leggo. 3 anni di reclusione per Luciano Gaucci, 1 anno e 8 mesi ciascuno per i figli Alessandro e Riccardo. Sono le condanne che i tre hanno patteggiato questa sera davanti al GUP del capoluogo umbro per il crack del Perugia Calcio. Per tutti, naturalmente, perché in Italia questo accade, le pene sono coperte dall'indulto. Dunque niente galera e forse rivedremo Luciano Gaucci, che è stato protagonista di un pezzo, diciamo, di storia del nostro paese, del calcio, ma anche del costume del nostro paese, su questo non c'è dubbio. Rivedremo forse Luciano Gaucci in Italia, perché non tutti lo sanno forse, ma Luciano Gaucci negli ultimi tempi ha soggiornato a Santo Domingo. Una strepitosa trasmissione delle Iene di qualche settimana fa lo immortalava in macchina, in mezzo ai campi, in mezzo all'acqua soprattutto, nuotare insieme a Enrico Lucci. Il 2006 è l'anno di Calciopoli, scandalo del calcio di Laga, preceduto dal crack del Perugia Calcio. Secondo l'accusa sono spariti 40 milioni di euro e altri 40 miliardi di lire ricavati dalla vendita di Nakata alla Roma. Gaucci scompare, inseguito dai guai, accuse di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta e 2 figli arrestati. Lucianone nostro riappare ai Caraibi e dopo 2 anni è ancora lì. Pronto? Luciano? Sì, chi è? Sono Enrico, delle Iene. Oh, ciao, come stai? Bene, Lucianone nostro. Pensavo di venire giù a farmi un bagnetto, stavamo un po' insieme, se t'annava. E quando vieni? Pensavo per 21, ci stai? Sì, ci sto. E sentite come va a finire con la nostalgia canaglia per Gaucci, che nonostante le acque splendide di Santo Domingo ha nostalgia dell'Italia e dei riti romani della sua vita. Nel paradiso dei Caraibi. Mazza, se sta una favola qua, Luciano. Ma che cazzo devo far fare di tornare in Italia? Ma la nostalgia è troppo forte. Roma mi manca. Eh? Roma mi manca. E che ti manca di più? A me mi piace di fare le passeggiate a Piazza di Spagna, a Piazza Venezia. Degli amici tuoi chi senti in Italia? Andreotti, il cardinale Angelini, il cardinale Zambri. Ma Andreotti era proprio amico tuo? Amicissimo. Andavamo a mangiare con la regina. Tu, Andreotti e la regina? Ma pure qua ti telefono? Sì, mi telefona lui e telefono io. Adesso chi è che ti piace come politico? Ma Andreotti è migliorato molto. No, Andreotti, Berlusconi. Ma tu come hai fatto ad arrivare a conoscere tutti questi? Quando stai nel giro conosci tutti. Che uno potrebbe domandarsi, ma alla fine chi glielo fa fare a Gaucci di tornare in Italia? Lì si vive, come lui stesso dice, in un mondo, in un paese senza regole. Sentite adesso Luciano Gaucci al volante di un enorme SUV in giro per le strade di Santo Domingo. ora da Santo Domingo è sempre pronto a ripartire. Guardate che botta che gli do, eh. Ci ha fermato, state fermi. Sulla via del ritorno. Non è male. Lui ci ha fermato. Com'è nel suo carattere? A 200 andiamo adesso. Non resiste. Non fa cazzare a Luciano. Luciano. L'ho sfiorata, oh. A divertirsi. E gli andiamo addosso, qual è il problema? Tanto si fa male lui, mica noi. Una forza della natura. Attento, qua c'è l'incrocio. Che si fregano dei motorini? Incontenibile. Sto andando contro mano, ragazzi, eh. Implacabile. Mo superiamo il curva, eh. Che mi spiega come funziona. Ma qua ognuno fa come cazzo gli pare, mi sa. Questo bellissimo paese che lo ha accolto è una repubblica che non ha regole, ognuno se le fa per sé. Che uno potrebbe chiedersi ancora una volta, ma chi glielo fa fare di tornare dove si discute della social card? Non ne ha bisogno certamente Gaucci, ma soprattutto si paragona la social card o tessera, non so come si possa chiamare, tessera annonaria, no, perché la tessera annonaria ricorda davvero altri periodi, la carta degli acquisti, in cui si paragona questa carta degli acquisti, questa social card, alla tessera del pane di Pietro. La social card è l'ultima delle cose che dobbiamo fare. Va bene, ma io personalmente ritengo che la tessera del pane faceva parte di un altro periodo storico. La tessera del pane e il ventennio di Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista. La quantità di risorse messe da Tremonti per i poveri è ridicola rispetto a quella messa per le banche. E in secondo luogo questa idea della social card somiglia molto alla tessera del ventennio, insomma. La tessera del ventennio. Ancora qualcosa sulla vicenda di Vladimir Luxuria, che è stato nostro ospite ieri sera. Ma insomma, la cosa migliore forse l'ha detta ieri, come al solito, Maurizio Crozza Ballarò. Luxuria ha vinto l'Isola dei Famosi, prendendo più voti lei di tutta la sinistra arcobaleno. Pare che Bertinotti abbia già chiesto di poter partecipare alla Pupa e il Secchione. E dal momento che non mi stupisco più di niente, non escludo nella parte della Pupa. Comunque. Più seriamente, ma non troppo, Norma Rangeri, che è giornalista del Manifesto, critica televisiva, certamente donna di sinistra, si stupisce un po', e bisogna dire ha ragione, della esaltazione di Luxuria da parte dei comunisti o ex comunisti, insomma, dell'estrema sinistra. Lei può fare quello che vuole, ma le reazioni sono state veramente esilaranti, soprattutto da parte di una sinistra alla quale io appartengo, e per questo mi sono molto arrabbiata, perché non pensavo mai che si potessero prendere così macroscopicamente lucciole per lanterne e dire, come ha fatto la famiglia Bertinotti o come ho letto sui giornali, che questo è riscatto di che. Allora dovremmo dire che certi epifenomeni televisivi come Malgioglio, Platinette, sono i portabandiera di che cosa? Della rivoluzione sessuale? Oppure, che ne so, il Costanzo Show è la barricata della rivoluzione? Billionaire di Briatore è l'avanguardia dell'emancipazione? Subito Alberto da Milano. Alberto, ancora buonasera, concludiamo il suo intervento. Sì, buonasera, io stavo chiudendo il discorso, volevo essere più preciso. Diciamo che per motivi umanitari non ha mai senso, secondo me, un ergastolo, perché è solo un costo per la società che io non giustifico, cioè, quindi non dico di lasciarli liberi, però la rieducazione, la possibilità di riabilitazione ci deve essere. Davanti però a cose estremamente efferate e certe, parliamo ad esempio, non parlo dei coniugi Olinda e Rosa, però prendiamo il mostro di Marcinelle, io rimango dell'idea che una morte dolce, togliere dalla società, è come togliere un costo e basta, perché un uomo che ha 50 anni uccide senza il benché minimo rimorso, anche dopo uccide bambine dopo anni di violenza e altro, io non so che cosa si possa recuperare. Però Alberto, da questo punto di vista non vedo allora la differenza, non è che l'efferatezza di un delitto, se si uccidono 10 persone per 5 anni, sono delitti più efferati di un'uccisione tipo quella della castagna, del figlio e dell'altro parente. Non mi sembra che si possa fare una differenza di questo tipo. E poi, francamente, essere, ripeto, favorevoli alla pena di morte e invece contrari all'ergastolo non mi sembrano posizioni facilmente conciliabili. La ringrazio. Silvano, sempre da Milano, buonasera. Buonasera, la ringrazio dell'ospitalità che grazie a lei, dica. Volevo intervenire sulla crisi economica che ci attanaglia. Ora, il mio pensiero è questo. Io sento parlare di interventi spot tipo social card e varie operazioni che si prospettano per il futuro. Però poi alla fine il tutto si riconduce a una semplice esemplificazione. Mancano i soldi, non possiamo intervenire sulle tredicesime, non possiamo andare di qui, non possiamo andare di là. Io sono un lavoratore dipendente che ormai ha raggiunto quasi 35 anni di attività e le dico, ho sempre pagato fino all'ultimo centesimo. Ora, noi tutti sappiamo, è inutile nasconderci, che c'è una fortissima evasione fiscale in Italia. Allora perché non si prende la palla al balzo, non si ha il coraggio una volta per tutte di farla smettere questa brutta abitudine che noi abbiamo di non pagare le tasse? Perché non si ha il coraggio di fare una rivoluzione e di dire la smettiamo di usare questo sistema che è altamente improduttivo, altamente inefficace e cambiamo tutte le regole, nel senso non partiamo più dalla tassazione ad origine sui dipendenti, ma lasciamo in mano ai dipendenti il loro valore delle buste paghe e poi da lì incominciamo con la dimostrazione di quello che io acquisto, che posso poi detrarre da tutte le da tutto il mio montante che ricevo dal datore di lavoro. Sì, no, Silvano, però lei ha messo in campo diverse cose insieme. Lei dice il problema non è la social card e questi provvedimenti, bisognerebbe combattere più a fondo l'evasione fiscale, e tutti siamo d'accordo, anche se in questo momento c'è la lotta contro l'evasione fiscale, una lotta di lungo periodo, chiamiamola così. Adesso bisogna prendere dei provvedimenti urgenti, giusti o sbagliati che siano quelli presi e che verranno presi ufficialmente dal governo tra un paio di giorni. E poi lei parla di un'altra cosa, una rivoluzione addirittura nel modo di concepire il prelievo fiscale. Come modo di lotta all'evasione non è che vada bene, perché se oggi, diciamo, lo Stato dal punto di vista fiscale tiene è perché c'è un prelievo alla base. La ringrazio, Silvano. Andiamo a sentire Massimo da Modena. Poi, naturalmente, i suoi suggerimenti sulle detrazioni sono tutti assolutamente legittimi. Massimo, prego. Buonasera. Diciamo, stavo ascoltando la trasmissione e tutto secondo me ha un po' avvalorato quello che sto pensando. Abbiamo l'acqua alla gola, per non usare un altro termine, una serie di problemi, mancanza di fiducia, gente che continua, soprattutto i nostri politici di una parte e dall'altra, a darci la depressione acuta, e poi però vedo che sui giornali ci occupiamo dell'Ambrogino d'oro al povero Biagi che non c'è più e non si può neanche né difendere e via dicendo, del signor Gaucci che in un altro paese l'avrebbero messo in galera, avrebbero buttato via la chiave. Ah, questo è vero. Insomma. Ecco, di Luxuria che riporta in auge la sinistra, arcobaleno e via dicendo. La conversione di Gramsci poi nel 1937 nella clinica romana, questa mi ha emozionato, devo dire la verità. Però non è che ci si occupa. Che mi ha toccato, scusi, guarda. Però Massimo, no, naturalmente. Però non è che ci si occupa solamente di queste cose. Non è vero, non è che i giornali, le televisioni parlano a fondo di Luxuria, della conversione di Gramsci, della medaglia e dell'Ambrogino d'oro a Enzo Biagi. Non è affatto così, anzi i titoli oggi dei principali telegiornali, l'abbiamo appena ascoltati, sono invece sulla situazione economica, sui provvedimenti del governo, su quello che bisogna fare. Mi sembra un'analisi un po' leggermente sbagliata la sua, o no? Ma volevo dire, le rubo 30 secondi per dire una cosa. Io ho fatto una denuncia a un giornale, due lettere, una me l'hanno pubblicata e l'altra no, per dire che io andando a Roma una volta ogni due mesi per lavoro prendo l'Eurostar, l'azienda mi paga anche, le aziende mi pagano, sono un libero professionista della prima classe, io chissà perché tutte le volte incontro un ex senatore dell'altra legislatura, quella caduta adesso con le ultime elezioni, della sinistra, arcobaleno, eccetera, eccetera, che viaggia, sarà una coincidenza, l'ho incontrato già tre volte, tira fuori la sua tesserina di senatore, non paga il biglietto, io l'ho segnalato, un giornale me l'ha pubblicato, non dicendo il nome, io l'avevo messo, l'altro no, cioè questo per dire, questo è uno degli sprechi, li vogliamo eliminare? Ma per carità, le tessere ferroviarie gratis, adesso non so bene se gli ex deputati hanno diritto, non so per quanti anni, a viaggiare gratis sui treni. Approfondiamo questa cosa naturalmente, però certamente se fosse così sarebbe da eliminare, non si capisce per quale motivo. La ringrazio. Giorgio da Roma. Giorgio, buonasera. Buonasera, volevo intervenire sulla questione della democrazia italiana e del fascismo e fare anche una garbata polemica con lei, dottor Cusciani. Addirittura la democrazia molto italiana e il fascismo. Ma no, perché nel senso io ho la sensazione che da un lato fanno malissimo a invocare il fascismo, eccetera, ma per un motivo anche preciso, oltre a quelli che avete detto, e cioè che confondono il problema che in realtà è serio e reale. Cioè, se c'è un declino economico e civile dell'Italia, tutti siamo quasi tutti d'accordo nel dire che è perché siamo governati male, e cioè che le istituzioni della democrazia funzionano male. E se noi guardiamo allo stato della nostra democrazia, secondo me è molto peggiore di quello che lei spesso nei suoi commenti evidenzia, facendo anche a volte qualche ironia sui dipietristi, eccetera. E faccio un elenco dalle autorità garanti che sono politicizzate, alla pubblica amministrazione che è politicizzata contro la Costituzione, al pluralismo televisivo, insomma uno potrebbe continuare veramente a lungo. Però dall'altra parte quelli che poi invocano il fascismo fanno un disastro, perché danno buon gioco agli avversari a dire: ma di che cosa state parlando? Non ci sono né camicie brune né camicie nere, siamo completamente in un'altra situazione. Ma guardi che siamo d'accordo io e lei, 100% sulle cose che ha detto. Allora. Assolutamente, io penso che la democrazia in generale sia qualcosa di imperfetto, e in particolare in Italia ci sono quelli che lei ha elencato, sono dei difetti certamente presenti, ce ne sono tantissimi altri, però giustamente lei osserva, non ha nessun senso parlare di fascismo, nazismo, Videla, Argentina. Ha senso le denunce dei dipietristi e di altri che, senza essere estremisti, anzi sembrano dei moderati borghesi eccetera, che denunciano una degenerazione della democrazia soprattutto in Italia e quindi anche della qualità del governo. Assolutamente, Giorgio, vede che poi alla fine non siamo così distanti. Roberto da Padova, buonasera. Buonasera, niente, anche io volevo dire la mia per quello che riguarda la crisi economica. Sono d'accordo con l'ascoltatore e con lei che dice il discorso di combattere l'evasione fiscale è un discorso che va a lungo termine e qua servono provvedimenti immediati. Poi una cosa che si potrebbe fare subito, per esempio, non è quella di combattere gli sprechi nella pubblica amministrazione, lo dicono tutti, un po' di buttare su un po' di liberalizzazione di quelle abbastanza potenti. Quelle sarebbero due cose valide da fare subito. Assolutamente, però, Roberto. Però c'è una cosa, io non ho mica tanta fiducia di questo governo, perché guardi, per quello riguarda l'evasione fiscale, poco di buono ha fatto il governo Prodi, però una cosa buona aveva fatta, quello di cominciare a combattere un po' l'evasione fiscale, queste le misure di rischio le hanno tutte abolite subito. Per quello che riguarda gli sprechi della pubblica amministrazione, c'è l'esempio anche delle province, come ha detto anche Romiti ieri, si parlava di abolirli, questi qua sembra che non vogliono fare di nuove. Per via del discorso delle liberalizzazioni, io sto quello che ha scritto il Wall Street Journal, penso che l'abbia, lo sappia anche lei, no? Sì. Quando ha detto che Berlusconi è il paladino delle lobby e delle corporazioni. In apparenza è così, Roberto, non è che il governo di centrosinistra abbia fatto una rivoluzione da questo punto di vista, però insomma, qualcosa si era mosso, o qualche tentativo di movimento c'era stato, chiamiamolo così. Adesso non se ne parla più, non è più periodo, si parla di altre cose, insomma i temi sono altri. La ringrazio, andiamo a sentire Tommaso, provincia di Latina, buonasera. Eccomi, buonasera. Eccoci, buonasera. Ecco, volevo solo dire su Enzo Biagi. Sì. Che mi sembra, insomma, che ormai sia passato il tempo, stia cominciando ad andare in crisi il politicamente corretto, che veramente ci opprime, ci ha portato veramente ad un'eterna quaresima, non se ne può più. Io trovo che Enzo Biagi, che io ho comprato, quindi il mio contributo gliel'ho dato, ho comprato i suoi libri, quindi l'ho letto, io lo trovavo, devo dire la verità, molto noioso, sia nella prosa sia nel suo universo così narrativo e giornalistico. Ora, che non gli sia toccato l'ambrogino, come in tutte le cose, esistono dei meriti, dei valori personali, esiste anche una serie di contingenze politico-culturali che sicuramente contribuiscono, perché si tratta sempre di scegliere fra varie soluzioni. Evidentemente Biagi, una parte, i suoi meriti non li tocca nessuno, naturalmente poi ognuno si fa un suo giudizio, ma la sua parte, diciamo, dei crediti, per così dire, politici e del consenso intorno per metterlo nel Pantheon, in parte se li è giocati, perché ha voluto fare il fazioso pur non avendone alcun bisogno. L'ha detto lei stessa, l'hanno detto anche gli altri, che era un fazioso compiaciuto. E quindi a questo punto non vedo perché dobbiamo stracciare le vesti per una cosa così insignificante, che uno che è diventato un monumento vivente già da vivo, da morto non gli è stato dato uno dei riconoscimenti. No, ma infatti, Tommaso, non è, nessuno si straccia le vesti. Si faceva prima una considerazione. Io sono d'accordo, per esempio, con quello che oggi dice Repubblica Vittorio Sgarbi, che fra poco sentiremo. È un errore, semplicemente un errore per una guerra che a un certo punto deve finire. Questo è il punto. C'è una guerra che deve finire, forse il riconoscimento di questo Ambrogino d'Oro. Certo, nessuno vuole glorificare Enzo Biagi, figuriamoci, non siamo qui a glorificarlo. Forse sarebbe stato un momento per porre fine, un modo per porre fine a questa, a questa guerra tra berlusconiani e antiberlusconiani, di cui sicuramente Biagi è ancora un simbolo. Ciao Vittorio, buonasera. Eccolo, sono... Eccoci qui. Allora, certamente Vittorio Sgarbi, io ricordo un memorabile confronto con Travaglio su questo, non è che sia amico, tra virgolette, o di Enzo Biagi, però oggi a Repubblica ha detto una cosa che secondo me è interessante. È un puntiglio, quello che è accaduto è un puntiglio dei berlusconiani, ma così hanno l'effetto opposto. Perché, Vittorio? Esattamente, perché come capita nella Milano della Moratti, quando censuri l'immagine di anoressia di Toscani, la favorisci, e ancora non hanno capito che l'unica vera censura è il silenzio. Quindi creare un caso Biagi, chiunque l'abbia creato, forse non la Moratti in questo caso, che aveva proposto di dare l'Ambrogino, determina un effetto Biagi vittima che ne amplifica la forza oltre la sua stessa misura, perché Biagi non è stato un grande scrittore, è stato un buon giornalista, non è stato un uomo unico come Montanelli, è stato un buon divulgatore. Quindi il tema di fondo è: se vogliamo negarlo a Biagi, ed è sbagliato negarlo, dobbiamo dire gli Ambrogini vanno dati ai viventi e l'ha già avuto, il Famedio va dato ai morti e l'ha già avuto. Insistere a dargli un secondo Ambrogino contravviene un metodo, una regola, che non si dia due volte l'Ambrogino, che non si dia un morto. Allora, questa, mancando queste regole, uno potrebbe dire, e lo propongo io, diamolo a Manzoni, diamolo a Beccaria, diamolo a Brera, diamolo a Testori. Allora, non lo merita Biagi, ma proprio perché non lo merita più di quanto non l'abbia già avuto, inutile mettersi a impuntarsi, perché impuntandoti lo fai diventare l'eroe che non l'ha avuto, facendolo diventare più grande di quello che è. Ecco, e questo perché... possibile. Sì, sì, questo perché succede? Perché c'è qualcuno più realista del re? C'è qualcuno più realista del re? Sono delle zucche vuote, sono dei poverini, non chiunque l'abbia fatto è gente modesta. Avrebbero dovuto a priori, e lo dico adesso per l'avvenire, dire non si danno gli Ambrogini ai morti. Perché se cominci con i morti, lo scriverò su qualche giornale dei prossimi giorni, lo dai anche a Manzoni. Perché Manzoni non lo merita altrettanto. Non è che il morto, in quanto è morto, non può avere l'Ambrogino. L'ho avuto in vita, può avere il Famedio, e l'ha avuto. Allora, uno che ha avuto l'Ambrogino in vita, il Famedio è morto, ha avuto tutto. E perché non dare l'Ambrogino a Pavarotti? Ha fatto un certo, almeno questa volta ragiona la Moratti, allora. No, la Moratti pare che glielo volesse dare, secondo me il casino l'ha fatto lei siccome appunto, il casino l'ha fatto la rovescia, siccome voleva dimostrare che lei è una che tollera anche il diverso, ha pensato di fare dare l'Ambrogino post mortem e si è scontrata con la sua maggioranza, la quale però non aveva né lei né loro questa regoletta, che è una regoletta di metodo. Non fai il Presidente del Consiglio uno che è morto, non dai l'Ambrogino uno che è morto, però fai il monumento al Presidente del Consiglio che è morto e dai l'Ambrogino al Presidente del Consiglio che è vivo. Il tema è solo questo, altrimenti diventa come Cristo Biagi, glielo dai prima della morte, dopo la morte, fra due anni. Allora, mancando le regole, l'hanno proposto e ci sono cascati. L'ha proposto forse la Moratti. Quindi in realtà, una volta che è proposto, è meglio darlo. Far capire al mondo che non si poteva dare solo perché non lo può ritirare. E poi soprattutto, una volta che il sindaco lo vuole, dovrebbe avere la forza di farlo passare in Consiglio Comunale. Certo. Invece non ha avuto, la sua maggioranza si è messa contro, perché poi lei si fa i nemici che si fa, ma anche con la Cederna, voleva fare la via alla Cederna, non è riuscita. Io me la sono cavata dandola al fratello, che era iscritto al PC, fondatore d'Italia Nostra, che toglie per sempre la possibilità di avere la strada alla Cederna, perché non ci sarebbero due vie Cederna. E la stessa cosa abbiamo fatto con Biagi, abbiamo dato una strada a Marco Biagi, sì, che non possiamo più darla a Enzo Biagi. Però queste divertenti trovate rispetto a un martire come fu Marco Biagi creano situazioni che vanno poi spiegate, non è che non glielo dai per cattiveria. Qui bastava dire ai morti non si dà l'Ambrogino, se invece ne fai una questione di principio è chiaro che Biagi vince sempre, perché ogni volta che qualcuno viene censurato o è vittima di una forma, quindi qui in questo non doveva neanche cominciare a parlarne. Assolutamente. Però che Biagi meriti l'Ambrogino oltre a quello che hai già avuto è cosa che si può discutere, ma a quel punto basta dire non te lo do perché tu hai, e in effetti devo dire che in quello sono riusciti a non fare un errore, perché gli hanno dato il posto nel Famedio, che si dà ai morti. Ma se uno ha il posto nel Famedio, non si capisce per quale. Pensi che nel Famedio c'è anche la strada dedicata a quel sindaco Agnasi, sì, che è lì. Però quando gli ho proposto la via ad Agnasi mi ha detto di no. quindi anche lì paradossi, cioè, sei nel famiglio ma non hai la via, c'è cioè, una roba, è una confusione generale, quindi occorre semplicemente, se vuoi evitare questo, dare delle regole. I morti non hanno l'Ambrosino, i morti hanno il famiglio, solo i vivi possono avere l'Ambrosino. Bene, bene, speriamo che queste cose vengano accolte, perché mi sembrano cose assolutamente di buon, che evitano queste polemiche che poi finiscono sui giornali, la censura. E poi ogni volta la figura da coglione la fa chi ha posto la censura, anche se avesse delle ragioni, la censura in sé è sbagliata e negativa, perché stabilisce un potere contro la libertà. Questo quindi non lo capisco, sono bambini piccoli. Quindi io darò l'Ambrosino di Salemi a Enzo Biagi. Va bene, grazie, grazie. 19:52, andiamo a sentire Francesco da Reggio Emilia. Sì, buonasera. Prego. Sì, io volevo intervenire, non so, non ho ascoltato la radio negli ultimi minuti, sulla social card. Prego, prego, dica. Io sono un ragazzo di 30 anni, sono sposato e ho due figli. E ho letto oggi sui giornali le cifre che ha indicato il ministro Tremonti e mi sembrano ridicole. Io sono un elettore di centrodestra, quindi non ce l'ho per una questione politica, ma se sono veri i limiti che hanno messo, quindi ne potrà usufruire chi ha un reddito annuo di tra i 6.000 e gli 8.000 euro, cioè vorrei sapere in Italia... chi ne potrà usufruire? Beh, 1.300.000 persone, da quello che da quello che sembra, 1.300.000 tra barboni o pensionati con la minima sì e no, e poi 40 euro al mese non ci fai neanche la spesa una settimana. Cioè, mi sembra una cosa... io e mia moglie due stipendi, quindi non mi lamento, però dobbiamo stare attenti all'euro. Mi sembra, l'ho visto un po' come... Cioè, non vorrei dire una presa in giro, però una cosa un po', questa volta un po' demagogica, un po' come il bonus bebè che io non ne ho potuto usufruire quando è nato il mio secondo figlio perché avevo un reddito complessivo superiore ai 20.000 euro e quindi mi sembra insomma... Beh certo Francesco, non è certamente non è diretta a lei la social card, però il governo stima che saranno 1.300.000 beneficiari e si fanno delle scelte in questo caso, non è certamente uno di quei provvedimenti che risollevano l'economia e i consumi, da questo punto di vista non c'è dubbio, in teoria secondo i propositi del governo è un provvedimento per alleviare la situazione di famiglie molto povere, pensionati eccetera eccetera, fosse solo questo il provvedimento... non basterebbe, forse non basteranno nemmeno gli altri provvedimenti, però lei si stupisce del fatto che 40 euro sono irrisori anche per gli indigenti, adesso non esageriamo, non è proprio così Beh, basta andare alla Coop, ai supermercati, insomma con 40 euro uno sì ci fai la spesa, ma proprio insomma mi sembra io l'ho vista un po', dato che con i titoli trionfalistici con cui la presentavano questi interventi per aiutare le famiglie italiane, io faccio parte di una famiglia italiana, mia moglie è insegnante e abbiamo due stipendi nella norma, anzi, e non ci considerano, ecco tutto qui. Beh Francesco, appunto lei però ha un po' riassunto con queste ultime considerazioni il suo pensiero, è evidente che la social card non è diretta a lei, non è diretta a me, è un mondo quello sotto i 6.000 euro che forse sia io che lei non conosciamo e non possiamo sapere se effettivamente 40 euro, io penso che al di là delle considerazioni politiche, serve, non serve, sono provvedimenti che hanno una forza, sono provvedimenti che hanno una, sono incisivi, io non credo che siano incisivi, non possiamo però sapere se davvero questi 40 euro al mese sono effettivamente qualcosa che dà sollievo. Io penso di sì per una certa fascia di popolazione e comunque ripeto Francesco, provvedimenti analoghi sono allo studio o sono addirittura in vigore già in altri paesi. Andiamo a sentire Alessandro, provincia di Massa, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. No, io mi riferisco a quello che Fine ha detto, mi sembra ieri o ieri l'altro comunque, in merito al cesarismo. Non so se si è affrontato questo tema stasera. Se no, perché non mi sembra granché interessante Alessandro. Francamente Fini che parla di cesarismo e con riferimento a Berlusconi, i rischi di cesarismo, mi sembra qualcosa esatto, piuttosto però, vago e fumoso. Sì, sicuramente sono... parole forti, perché poi ovviamente sono anche dei riferimenti del passato, dove già Gramsci lo associava a persone che poi dominavano le folle in qualche maniera, però è la fonte che a me dà da pensare, cioè se ciò che dice Fini, che la terza carica dello Stato, che è un alleato di Berlusconi, che ovviamente tutto ciò che dice deve avere in funzione di salvaguardare questo esecutivo e non di contrapporlo, è abbastanza preoccupante, non si può certo ignorarlo quantomeno. No, ma guardi Alessandro, certamente non si ignora nulla, non si deve ignorare nulla, francamente non vedo questo rischio di cesarismo. Certamente c'è un governo che ha un Presidente del Consiglio molto forte, cosa che non era mai accaduta prima. Se questo è cesarismo, non so a cosa si riferisca Fini. TG5. Ergastolo e isolamento diurno per 3 anni, il massimo della pena per Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba. Applausi in aula alla lettura della sentenza. Via libera della Commissione europea, un piano da 200 miliardi per far ripartire l'economia. Tremonti lancia la carta acquisti, benefici per 1.300.000 italiani. In migliaia, con dolore e rabbia, i funerali di Vito, lo studente morto nel crollo del soffitto al liceo di Rivoli. L'uomo che il 22 maggio a Roma uccise 2 fidanzati in motorino, condannato a 10 anni per omicidio volontario, è la prima volta per un incidente stradale. Vladimir Luxuria è la nuova icona della sinistra dopo il trionfo all'Isola dei Famosi. Bene o male, ma tutti parlano di lei. Bene, la carta acquisti, l'omicidio volontario, Vladimir Luxuria tra i titoli del TG5, sentiamo il TG1. Strage di Erba, ergastolo e isolamento per 3 anni ai coniugi Romano, Azzuz. Ora i miei cari riposano in pace. Bruxelles sì al piano anticrisi da 200 miliardi di euro, Almunia, vincoli di bilancio più morbidi, ma solo per poco. Tremonti lancia la social car per i più poveri, vale 40 euro al mese, Veltroni, collaboriamo, ma il governo cambi rotta. L'FBI, Al-Qaeda potrebbe colpire la metro di New York a Natale. Obama nomina Volcker capo consiglio economico. In migliaia per l'addio a Vito, il ragazzo morto nel crollo del liceo di Rivoli. La sorella sarà l'angelo degli studenti. Batman, una morte annunciata dopo quella di Superman e Capitan America. Giallo nel mondo dei fumetti su chi l'ha ucciso. Bene, e sentiamo anche la 7. Ergastolo per Olindo Romano e Rosa Bazzi, scusate c'è qualche disfunzione tecnica, i coniugi accusati della strage di Erba per la corte d'assise di Como furono loro a uccidere Paola e Raffaella Castagna, il piccolo Yusuf e la vicina Valeria Cherubini, la coppia condannata anche all'isolamento diurno per 3 anni e al risarcimento dei familiari delle vittime. L'Unione Europea vara il piano da 200 miliardi per l'economia, ogni Stato adotterà le proprie misure, a Bruxelles il coordinamento, più flessibilità su Maastricht, Tremonti presenta la social card italiana, 40 euro al mese da ottobre per 1.300.000 cittadini meno abbienti. Lo vedete, applausi, tanta commozione, migliaia di studenti ai funerali di Vito Scafidi, il ragazzo di 17 anni morto per il crollo al liceo Darwin di Rivoli, un martire di persone senza scrupoli, dice la sorella. Il parroco chiede che la sicurezza delle persone venga prima delle ideologie. Bene, erano i titoli della 7. Carlo Castagna, Sky TG24. Nipoti con sua figlia. Ci si accingeva a entrare nel clima natalizio, quindi eravamo una famiglia con altri obiettivi, ma comunque la forza l'abbiamo trovata per proseguire. Era Carlo Castagna, che in tutti questi mesi sicuramente è stato uno dei protagonisti, purtroppo per lui, di questa vicenda, con il perdono, con le domande insistenti spesso, come è normale che sia, anche dei giornalisti su quali erano i suoi sentimenti nei confronti dei coniugi Romano. Andiamo a sentire gli ascoltatori, però, che sono diversi, non prima di avervi letto qualche messaggio. Con 40 euro al mese si può acquistare 1 litro di latte al giorno. Giorgio, che ridere vedere il mio gioielliere che denuncia 4.000 euro con mia nonna al supermercato, che insieme espongono la social card. Giovanni da Pordenone. Vorrei far notare, però, me lo diceva prima un ascoltatore, che in realtà non è solamente la dichiarazione dei redditi a far testo per quello che riguarda la social card, ma sembra anche il conto corrente, altri criteri. E poi ancora, chi andrà alla social card, le partite IVA che dichiarano meno di 6.000 euro, i poveri evasori, tempi duro per loro, del resto cosa ci si aspetta da Tremonti & Company? 40 euro ci compri 2 settimane di pane per 2 persone, meglio di niente. Il 90% di chi dichiara 6.000 annui è chiaramente un evasore quasi totale. Ne conosco personalmente alcuni, Francesco da Roma. Andiamo a sentire Francesco da Venezia. Buonasera. Buonasera Cruciani, grazie per l'opportunità. E io la chiamavo perché ho una perplessità che volevo condividere, che forse è una preoccupazione più che una perplessità. Mi sembra quasi che in questo ultimo periodo le istituzioni nazionali ma anche internazionali si stiano rivolgendo sempre di più al cittadino, al privato oppure alle imprese, quasi in un appello di continuare a consumare, di continuare a chiedere alle banche di continuare a erogare credito, quasi consapevoli di una certa impotenza di fronte a una situazione complessa, una situazione economica, sociale complessa. Quindi è un po' capire se questo sta in qualche maniera trapelando, si sta un po' concretizzando, che è la vera preoccupazione anche delle istituzioni di non riuscire più a spostare il comportamento del mercato, del cittadino, delle imprese attraverso le usuali leve che potevano essere quelle della politica economica, degli incentivi. Guardi, non è che tutto si riduce all'appello a consumare, è quello che ha detto il Presidente del Consiglio, ma non c'è solo questo, mi sembra. Né qualcuno vuole dare tutta la responsabilità di quello che accade ai consumatori che non spendono. Sebastiano da Padova. Buonasera Sebastiano, salve, e complimenti per la sua trasmissione, come le dicono sempre. Grazie, dica. Io volevo portarle una piccola esperienza. Io sono un consulente strategico nel mondo immobiliare e affianco tipicamente grandi investitori, quindi fondi di investimento, fondi di private equity. E la mia telefonata era per portarle un'esperienza relativamente al tema delle scuole. Io ho lavorato per mesi a un progetto che coinvolgeva una provincia del nord Italia, per la precisione tra l'altro di una grande provincia, quindi di un capoluogo di regione. Sì. Dove sostanzialmente c'è un problema su circa 55 scuole che coinvolgeva all'incirca un 15-20 mila bambini. Di queste 55 scuole, più di 50, quindi praticamente il 95% delle scuole, era fuori norma. Per la sicurezza? Per la sicurezza, in particolare dal punto di vista della sicurezza dei vigili del fuoco. Sì. Chiaramente sistemare queste scuole, che è una priorità sicuramente sociale, però imponeva delle risorse che non erano disponibili all'interno dei bilanci della provincia. E siamo entrati in contatto perché questa provincia ha una serie di proprietà immobiliari interessanti, tra cui una in particolare che è un immobile storico, non utilizzato, diciamo così, adeguatamente, quindi è dato in locazione ad un soggetto, ad un ente, ma sottolocato. Allora io ho proposto a questo ente locale di andare a fare un'azione di valorizzazione, quindi di dire: io oggi ho questo immobile che non mi rende quasi nulla, anzi in realtà ho dei costi di manutenzione perché l'immobile storico era molto costoso, e perché non facciamo un'operazione di questo genere? Io potrei costruire un'operazione di finanza dove un investitore istituzionale acquisisce questo immobile con determinate caratteristiche, però invece di dare delle risorse finanziarie pure che entrerebbero in un bilancio pubblico e quindi poi andrebbero spese chissà in quale modo, costruiamo un meccanismo che consenta, attraverso soggetti di adeguata affidabilità e di discussa competenza, di restaurare, di toccare, diciamo, a coprire il fabbisogno per restaurare le scuole, diciamo. Esattamente, questo era sostenibile perché in realtà i canoni di locazione che si potevano realizzare attraverso questo immobile, diciamo. Sì, no, ma ho capito qual è il circuito, esatto, diciamo, virtuoso che si poteva creare. La risposta qual è stata? La risposta è stata che io ho interagito prima con gli uffici tecnici, quindi con i dirigenti, poi sono arrivato a interagire con gli uffici, diciamo, politici, quindi gli assessori del, sì, patrimonio, eccetera, di tutte queste delle ambiti che venivano toccati a questa operazione, e ho trovato grandissimo entusiasmo. Perché il ritorno politico chiaramente era notevole di una cosa del genere. Però? Due mesi fa, nell'ultimo incontro con i vertici, vi mando, mi dicono loro, l'elenco puntuale delle singole scuole e delle singole opere da seguire, perché chiaramente... Sì, però andiamo al sodo, Sebastiano, qual è il punto? Come è finita la vicenda? Sto ancora aspettando l'elenco. Questo per dire che in realtà non è necessario avere tutte le risorse per andare a intervenire e poi sistemare. Sì, certo. Basterebbe a volte usare della creatività, della competenza finanziaria o comunque assolutamente creativa. anche a livello lei dice di enti locali e soprattutto da parte delle province che hanno competenza diretta in alcuni casi sulle scuole. Sono d'accordo con lei, dunque quando si invocano le risorse cerchiamo di fare un po' mente locale, di scatenare la fantasia e soprattutto di essere pratici con le cose che si possono fare sugli immobili, per esempio ce ne sono tanti di proprietà delle province. Andiamo a Milano. Luca, buonasera. Sì, lieto di salutarla. Buonasera a lei. Buonasera. Intanto qualche ascoltatore fa notare che le frasi di Veltroni su un certo numero di famiglie italiane che non arrivano alla seconda settimana del mese sono riferite, ma insomma credo che di aver detto che era una notizia che veniva dalla stampa, in particolare da un sondaggio, da un'inchiesta di Confesercenti, ripresa naturalmente dagli organi di stampa, su una famiglia su 10, 9% delle famiglie italiane che finisce i soldi alla seconda settimana del mese, il 26% alla terza, eccetera, eccetera. L'82% ha ridotto le spese. Poi naturalmente bisogna vedere quanto sono credibili queste ricerche. Luca, prego. Io ho chiamato il signor Cruciani perché volevo esporle una tesi che non vuole essere giudicata come dietrologica. Si parlo in riferimento alla crisi economica americana. Sì. Per quanto riguarda il discorso petrolio a $147 due mesi fa e agli interventi sul sistema finanziario. Allora, io vorrei sapere da lei, è possibile che nel 2001, quando sono saltate le torri, per sostenere i costi della guerra americana in Iraq, il sistema americano si sia inventato la cartolarizzazione dei subprime americani? Guardi Luca, e abbiano recuperato della se lei prosegue su questo piano, per carità, è un discorso interessantissimo, ma non le posso dare nessuna risposta. Non... Prosegua. Poi lo lascio. No, prosegua. La crisi da cosa dipende? Dunque, secondo lei, mi faccia capire. Io sono convintissimo, sì, che dopo la caduta delle torri, sì, gli americani abbiano fatto pagare al sistema finanziario terzo, sì, emettendo queste cartolarizzazioni per recuperare liquidità, e quindi poi alla fine dall'oggi al domani il sistema è saltato. Ho capito. E adesso stiamo correndo dietro ai buoi che sono fuori dalla stalla. Ho capito Luca, la ringrazio. Andiamo a sentire Umberto da Bergamo. Buonasera. Buonasera Umberto, dica. Dire molto brevemente, dicendo appunto sulla crisi finanziaria, cioè Barack Obama ha cercato di reagire, come si dice, dando dei fondi per creare delle nuove centrali solari e quindi dare un po' una mano all'economia in questo modo, così almeno avrebbe creato dei posti di lavoro. Non è che sia stato l'unico provvedimento, a parte che non è ancora un provvedimento perché Obama non è ancora in carica. No, però comunque è tra le idee di Obama. Perché invece il nostro governo non ha fatto lo stesso? Siamo in crisi. Il nostro paese dipende dall'estero per quanto si parla dell'energia per l'80%, quindi noi compriamo energia dall'estero. Perché non impariamo a procurarla solo appunto con il fotovoltaico, l'eolico e quello che è, così almeno già risparmiamo sull'acquisto di appunto energia all'estero. E invece noi in Italia pensiamo sempre a che cosa? A finanziare le banche o comunque a garantire le banche, le grandi aziende, ma mai i cittadini, le piccole imprese, perché se vengono finanziate con pochi soldi. Infatti degli 80 miliardi che verranno stanziati, ai cittadini e alle piccole imprese andranno solo 4 miliardi, il resto andrà infrastrutture e grandi aziende. In questo momento l'Italia non ha questo bisogno di infrastrutture, a parte le scuole comunque. Se l'Italia non abbia bisogno di infrastrutture, abbia pazienza Umberto, mi sembra proprio un'analisi corretta. Ha fatto il nome del ponte di Messina, no? Sì. Ecco, una cosa che per adesso assolutamente non penso serva. quanto invece. Ma questo lo dice lei, è 50 anni che il ponte di Messina è lì, che non sappiamo sì, cosa fare di questa, di questo progetto. Ma un'isola che si sposta di 1-2 centimetri ogni 8 anni. Ma lei è partito da Obama ed è arrivato all'isola che si sposta, non sì, so se ci rendiamo conto. Sono arrivato a questo perché Obama è andato a prendere una situazione molto più diretta, nel senso creare posti sì. di lavoro, energia. Noi invece pensiamo a tutt'altro. Cioè, il ponte di Messina per adesso io penso che non serva. C'è tutt'altro da fare, c'è anche la Salerno-Reggio Calabria, allora si dovessimo parlare di infrastrutture che sono anni e anni che non viene mai fatto. Sì, Umberto, niente. Ma guardi che nei soldi che il CIPE stanzierà per le grandi opere c'è anche la Salerno-Reggio Calabria, oltre al ponte, al Mose. Poi, per carità, poi da venerdì apriremo un dibattito, se vuole, sulla utilità del ponte sullo stretto di Messina. Quando verrà deciso lo stanziamento, se mai verrà deciso venerdì lo stanziamento, si parla di 700 milioni di euro. Per quello che riguarda la politica energetica italiana, lei dice cose molto corrette, sicuramente si dovrebbe rilanciare anche in Italia l'investimento sulle fonti alternative. Da questo punto di vista non c'è dubbio. La ringrazio, l'onorevole Matteo Brigandì, Lega Nord, buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Dove si trova Brigandì, che sento una... In aula. Senta, a proposito, come finisce con i pianisti? Si fa questa sorta di rivoluzione informatica attraverso le impronte digitali per arrivare a eliminare questo problema, che evidentemente è un problema? Io credo che questa cosa lo debba decidere il Presidente della Camera, quindi cosa deciderà non si sa. Si dice questa cosa qui. Beh, però leggo anche che lei dice la registrazione delle impronte, come abbiamo fatto notare in tanti, non potevano certo imporla, e poi politicamente parlando non l'hanno voluta per i Rom, non vedo perché dovremmo farla noi, io non concederò la rilevazione delle mie e così molti miei colleghi, gli altri facciano quello che vogliono, ma se uno non concede questa rilevazione a lei, allora per lei non vale questa rivoluzione informatica. Guardi, io sono seduto in prima fila, ho un corridoio da una parte e a sinistra c'ho un membro di governo e quindi non c'è mai. Dunque non può barare lei. Per cui io sono nella situazione che assolutamente non posso barare. Trovo sgradevole il fatto che vengano prese le impronte per due ordini di motivi. Il primo è perché si spendono dei soldi pubblici che non varrebbe la pena spendere, perché parlano di soldi veri. Cioè. 450 mila euro, no? Ecco, non è cosa da poco, voglio dire. Il secondo perché ci sono due alternative serie. La Camera fa qualche migliaio di dipendenti, voglio dire, andare a controllare non è una cosa così complicata. Di più. Cioè, secondo lei i funzionari della Camera dovrebbero mettersi a controllare le votazioni se qualcuno fa il pianista? Basterebbe questo, un controllo da parte dei dipendenti della Camera? Stiamo parlando di un'aula, mica stiamo parlando di una cosa sterminata. È un'aula, sono seduto qui io in questo momento. Voglio dire, non è una cosa complicata a rilevare che ci sono due luci e una persona, no? No, no, ma guardi, sulle spese e sul fatto che sia, secondo me, una follia arrivare a inventarsi un congegno elettronico per rilevare i pianisti, sono d'accordo con lei. I settori sono 9, li sto portando in questo momento. Sì. Con due persone che controllano le file, 18 persone, voglio dire, sono più che sufficienti, dei commessi che verificano questa cosa. Lei capisce bene, qui di commessi abbiamo veramente troppi, a mio modesto avviso. Quindi utilizzarli in aula mi parrebbe una cosa decorosa. Secondo, io trovo che sia invece indecoroso votare per gli altri. Basterebbe spiegare questo tipo di indecorosità e pubblicizzarla. Voglio dire, invece andare a pubblicizzare le presenze o le assenze alle votazioni, che sono delle sciocchezze. Le faccio un esempio, noi 3 giorni che siamo qui abbiamo votato 3 volte, una volta al giorno. C'è un giorno dove si vota 120 volte, quindi magari lei è assente 3 giorni e ha 3 voti in meno, e assente quel giorno lì e ha 120 voti in meno. Sì, sì, no, ma certo. Quindi queste cose qui sono sciocchezze. Invece la cosa seria è se uno para, cioè se due votano, se uno vota per un altro. E allora a questo punto varrebbe la pena, invece che pubblicare le presenze e le assenze, di pubblicare chi è che bara. Barare è una cosa più seria. Sì, non è facile scoprire chi bara, qualcuno ogni tanto confessa. Ma insomma. No, mi scusi, non è vero quello che lei sta dicendo. Io ricordo che sono state pubblicate le foto sui giornali. Sì, cioè, ma no. Le telecamere, non certo. È complicato. No, esattamente. Ma... cioè, c'è stata anche la confessione di Rosy Bindi negli ultimi giorni. Sì, ma io voglio dire, non è complicato fare un'immagine della camera. Le telecamere ci sono, quando noi parliamo fuori ci riprendono tutti, quindi avere una telecamera e il giorno dopo andare a pubblicare chi ha barato e dargli una sanzione, dopo due giorni non si vota più. Senta però, onorevole Brigandì, sembra che non si possa tornare indietro perché questi soldi già sono stati spesi, e poi che c'entra la questione delle impronte dei Rom? Quella mi sembra sia un po' una scivolata la sua, no? No. Probabilmente non mi sono spiegato bene. Ecco. Il problema è questo. Hanno, certo, cioè, voglio dire, di me si conosce vita, morte, miracoli, se ho fatto il militare, dove abito e ho 25 documenti di identità. Io sto dicendo all'esclusiva parte che diceva che prendere l'impronta Rom era ingiurioso, non certo la mia, dico scusate, è ingiurioso ai Rom, non è ingiurioso a noi, poi per carità di Dio. Sì, però le due cose non c'entra niente. La questione sulle impronte digitali ai Rom, metterle in mezzo con la rilevazione delle impronte dei parlamentari. Lei sa come, voglio dire, i giornalisti circolano per il cioè non ho risposto così a un'intervista, parlavo con un collega che era dall'altra parte. Mi scusi, qui c'è virgolettato. Politicamente parlando, non hanno voluta per i Rom, non vedo perché dovremmo farla noi. Non è che la smentisce lei questa cosa? No, mi scusi. Io in questo momento sto parlando con lei, sì. So che mi sta ascoltando tutti con la radio e le dico quello che sì. È opportuno che lei sappia da me. Posso fare una battuta con un mio collega nel corridoio, lei la sente alla virgoletta, è giusto che sia così, ma era una battuta con un collega il quale diceva ovviamente che i Rom... diceva questa faccenda, scusami, abbi pazienza, hai detto che è ingiuriante per i Rom e non lo è per te. Questo è il... Sì, no, ho capito. Quindi non c'entra assolutamente nulla. Lei comunque conferma che non concederà le sue impronte digitali? Assolutamente. Ma può saltare se un tot di parlamentari questo congegno, questo macchingegno elettronico, se un tot di parlamentari... Non lo so, io non l'ho voluto, non l'ho dato, le ripeto, io sono l'idea che quei soldi non andavano spesi in quel modo lì. Ci sono le telecamere inquadrano tutti i banchi, quindi anche se non può essere fatto immediatamente, così come si fanno i resoconti, il giorno dopo si inquadrano, il giorno dopo ancora si pubblicano le foto. Io le ho viste sul Libero, le foto. Lei perché non vuole dare le impronte? Perché i soldi non andavano spesi così, oppure per questione di privacy, o perché appunto i Rom non è stato possibile farlo? Allora nemmeno a me. Le impronte le ho date quando ho avuto delle cattive esperienze in vita mia, quindi penso di non darle appena possibile, per motivi strettamente personali. Va bene. È un problema di privacy, è un problema così. Io le ho date quando ho fatto il militare, cioè, mica qualcosa da nascondere, un parlamentare della Repubblica? Assolutamente no, ma proprio per questo, mi scusi. Io devo andare in un meccanismo dove si presuppone che io stia barando, e le ripeto, io sono in prima fila, quindi l'unica cosa al mondo che non posso fare è barare e votare per un membro del governo. Ho capito, ma se la Camera ha deciso di istituire questo tipo di strumento per verificare la presenza... Io non sono contrario, sono affari di chi ha deciso questa cosa qui. Sì. Cioè, voglio dire, al giorno d'oggi noi siamo in una situazione dove lo sport nazionale è delegittimare i parlamentari. Cioè, ma forse questo strumento consentirà di delegittimarli di meno, o no? Ma no, mi scusi, no. Perché vuol dire che il presupposto è dato che stanno barando, invece bisogna che smettano di barare, non che vengano costretti a non barare. Beh, insomma, le due cose possono coincidere spesso. No, non sono d'accordo con lei. Cioè, se lei lascia un portafoglio sul tavolo e io passo, io non lo prendo. Se invece si mette una guardia, io credo che sia insultante per me. Beh, però con la guardia forse è sicuro che uno non lo prende, invece senza guardia qualcuno lo può prendere. Io questo non lo metto in dubbio, io sto parlando di me. Sì, io sì, non no, ho certo. mai votato per nessun altro, anche volendo non potrei farlo. Sì. Qui, anche volendo nessun altro potrebbe farlo per me, ripeto, sono in prima fila, sì. quindi sono al di fuori del sospetto su un fatto di convenienza. Io ritengo che i parlamentari debbano avere la loro dignità e quindi debbano comportarsi in maniera consona. Per cui ci sono 50.000 modi per sorvegliarli e ci sono 50.000 modi per punirli. Fine. Cioè io voglio dire, se ci fossero le telecamere sì. e si guardasse sulle telecamere, o se ci fossero i commessi e i commessi guardassero e dopo un giorno vengono pubblicati i nomi di chi ha votato doppio, io le assicuro che dopo 3 giorni si smetterà. Ah, su questo non c'è dubbio, senza bisogno di spendere, lei dice 450. Abbiamo risparmiato un miliardo delle vecchie lire, e questo è il problema. La ringrazio, onorevole Brigandì. Avete sentito l'onorevole Matteo Brigandì della Lega Nord spiegarci perché secondo lui le impronte per questo sistema elettronico di rilevazione delle presenze durante i voti dei parlamentari è un errore. Lui le impronte non se le farà prendere per i motivi che avete sentito e dunque il sistema, se il suo esempio dovesse essere seguito da altri parlamentari, potrebbe anche saltare e avremmo speso dei soldi inutilmente. Andiamo a sentire gli ascoltatori, i titoli del TG2 questa sera non ci sono perché c'è la partita. Andiamo a Vincenzo, Milano, buonasera, velocemente perché come sapete dobbiamo chiudere fra poco. Sì, pronto, buonasera. Dica. Sono Spagnoletti, sono un insegnante. Prego. Intanto volevo dire all'onorevole Brigandì, che si sente così lesso, solo un inciso, che è un pensiero di Andreotti che diceva: a pensar male si fa peccato, però poi ci si indovina sempre. Mm. Vabbè, questo. Poi sono convinto che noi dobbiamo dare il buon esempio. Io faccio l'insegnante e se ne potrebbero raccontare tanti su come ragionano i nostri studenti. Prima di tutto gli adulti danno un pessimo esempio, pessimo in tutti i campi a partire dalla politica. E siccome io lì in classe sono il capo, mi considero il capo, sono io il primo a dare il buon esempio. Non squillo il cellulare, il mio, non leggo il giornale, non fumo e non bestemmio, perché c'è di tutto nella classe. Io, guardi, lavoro in provincia di Bergamo, è una provincia modello, è una scuola modello, funziona tutto, vi assicuro. Sì. Spendiamo tantissimo per innovarci in continuazione, evacuazione, prove, impianti di emergenza, luci, impianti allora? Di sensibilizzato. Il problema sono la mentalità dei miei studenti, che prendono quello che c'è dalla realtà. Volevo parlare dell'Isola dei Famosi, che è assolutamente diseducativa. Io ogni ciclo perdo un anno di buoni insegnamenti, può sembrare paradossale, perché vincono i leader, i modelli negativi, non nell'isola voglio dire, ma in generale. E con loro è tutto una questione di denaro. Io guadagno 1.400 euro, sono uno sfigato. È chiaro, loro non aspirano a fare l'insegnante, perché c'è tutta una società che rema contro. Le trasmissioni, ma anche di Raffaella Carrà, per fare un nome, che regala 500.000 euro in una serata. Guarda, io sono ormai un brontolone. Eh beh sì, forse questo un po' sarà capito, Vincenzo. È diseducativo. Sì, non lo so, però abbia pazienza. Tutto, Vincenzo, guarda. Non lo so, diseducativo, educativo, sono concetti un po'... sono categorie un po' impegnative, diciamo. Roberto da Lodi, velocemente. Buonasera, grazie di avermi fatto partecipare, Crociani. Io volevo soltanto rispondere a quel deputato di sinistra che parlava della tessera della social card in ricordo dei periodi del fascismo. Io volevo far solo presente questo. Io ho lavorato, ho avuto dei rapporti di lavoro con Cuba per molto tempo e con reciproca soddisfazione. E non so se questo deputato sa che a Cuba vige ancora la tessera che si chiama libretta, la tessera non aria, dove ti dice quante uova puoi comprare al mese, quanto zucchero e via sì. di seguito. Inoltre non so se lui ha presente che Cuba dice che questa ragione è data dall'embargo, ma se va sul Malecón vede la rappresentanza della Fiat, vede il Mercedes, e se va nei supermercati basta che paghi carissimo, trova la pasta italiana che non faccio il nome, può essere la Barilla o l'Agnesi, trova prodotti tedeschi, trova tutto, cioè arrivano i prodotti da tutte le parti del mondo meno che dagli Stati Uniti. Ho capito Roberto, cioè lei dice, e la ringrazio, non c'è bisogno di tornare al fascismo, se proprio uno deve fare un paragone per la social card sulla tessera sulla carta degli acquisti, basta andare alla Cuba contemporanea. Enrico da Prato, buonasera. Buonasera a lei. Buonasera. Dottor Cruciani. No, velocemente, dica. Mi rilasciavo al discorso prima degli sprechi e delle opportunità mancate di questo paese. Noi abbiamo una società, lavoriamo nel settore delle energie rinnovabili. Credo che in un momento come questo, in cui aziende sempre più chiudono tutti i giorni, il settore delle rinnovabili potrebbe essere seriamente un qualcosa da sfruttare per poter rilanciare o quantomeno tamponare la crisi che è sempre più incalzante. Nello specifico, quelli che sono i problemi della burocrazia soprattutto, sì, in questo momento si stanno trasformando in dei mostri che di fatto bloccano tutti i tipi di iniziative. E regioni che vogliono fare le virtuose mettendo piani energetici con obiettivi meravigliosi 30, 40, 50% nel concreto, poi prendo un caso su cui stiamo lavorando adesso noi, che oltre al nostro bloccherebbe altri 100 progetti nell'idroelettrico in una regione d'Italia, sì, sì, per danni di centinaia e centinaia di milioni nel solo settore dell'idroelettrico nella sola regione. Se nel sì, ci mettiamo eolico, fotovoltaico, tutto quello che è anche la microgenerazione diffusa, quindi impianti di sede di riscaldamento a biomassa, cioè stiamo parlando di un pacchetto di investimenti fatti con soldi privati, guardi bene. Sì. Questo è il e lei dice la burocrazia degli enti locali spesso è di ostacolo a questi investimenti. Ma la burocrazia degli enti locali, ovviamente, non siamo tra ingenui, è né più né meno che l'espressione di un'ideologia politica ecologista che tende a bloccare tutti i tipi di iniziativa perché ritengono che queste iniziative sì, siano lesive nei confronti del territorio sotto forma di vari aspetti. Enrico, il tema sarebbe da approfondire, non abbiamo il tempo naturalmente. Mi scriva la zanzara Etta, radio24.it, così approfondiamo. Gualtiero da Brescia, velocemente, qualche secondo, Gualtiero. Sì, grazie, buonasera. Volevo soltanto replicare al parlamentare sì, che ho sentito prima relativamente alle impronte digitali, non ho nemmeno capito il nome e nemmeno di che partito Brigandì è. Della Lega, Matteo Brigandì, pur essendo messinese è della Lega. Nuova specie di vergine, mi sembra, cioè si è dichiarato assolutamente in una maniera indecorosa, cioè voglio dire il portafoglio nel Parlamento è sparito, l'eufemismo che si è usato del portafoglio sul tavolo, perché i pianisti esistono un sacco di cose che non funzionano. Va bene, Gualtiero, riprenderemo domani, ho capito che a lei l'intervento di Brigandì non è piaciuto. La zanzara Etta, radio24.it, un minuto di ritardo, ci sentiamo domani 18:30. La zanzara.